La puntata precedente, che tentava attraverso un esempio banale di far notare che esiste una differenza tra il registro del parlato e il registro dello scritto, non nasce da un'esigenza di nozionismo, nasce da una preoccupazione, dalla perdita continua di competenza della lingua italiana, una perdita che paghiamo tutti. La paghiamo perché diminuisce la padronanza espressiva, perché scambiamo la libertà di fare come ci pare, di scrivere come ci pare, di esprimerci in maniera scorretta come un esempio di creatività e di quasi, come dire, liberazione dalle regole. In realtà dobbiamo fare un passo indietro e renderci conto che la lingua è una ricchezza enorme e il sistema di costruzione di una lingua è un sistema che continuamente si evolve, proprio attraverso le sollecitazioni del parlato, attraverso la contaminazione e l'incontro quindi con altre lingue, attraverso il cambiamento stesso della società e del mondo. Ma quello che è importante capire è che una lingua costruisce una visione del mondo. Il mondo là fuori, senza una lingua che lo parli, non esisterebbe. Basta sapere due lingue per rendersi conto della diversità stessa con cui percepiamo le cose, la diversità stessa con cui a quel punto esprimiamo noi stessi nel mondo. Perdere questo senso della lingua non significa solo banalmente non conoscere le regole, significa perdere una collocazione precisa nel mondo, perdere il legame di appartenenza con la propria comunità, ma anche avere meno strumenti di costruzione, di capacità di relazione con gli altri, con le culture degli altri. Quando quindi noi usiamo una lingua, dobbiamo essere padroni delle parole, padroni di quella sintassi, padroni della differenza tra un registro del parlato e un registro dello scritto, perché saremo anche dei lettori migliori, oltre che dei parlanti capaci di esprimere al meglio la propria visione delle cose. Comunicare è informare e esprimere, è qualcosa che permette agli esseri umani di avere e godere di un diritto di cittadinanza. Quando noi incontriamo lo straniero che non si esprime bene nella nostra lingua, assistiamo alla fatica enorme di una persona che sta cercando di conquistarsi il suo diritto di cittadinanza, ossia di visibilità, ossia di esistenza. Quando noi perdiamo la competenza sulla nostra lingua, siamo tutti degli stranieri e sappiamo benissimo quanto sia ostile il mondo che fintamente ci tollera e ci accoglie e quanto sia difficile a quel punto esprimere tutto quello che noi siamo se non sappiamo quella lingua. Il mondo intorno a noi è comunque in qualche modo classificato attraverso la lingua che usiamo. Fatemi fare un altro esempio banale, semplice, che fa capire quanto siano proprio le regole che permettono la libertà dell'invenzione. Quando io a pranzo dico al mio compagno vorrei bere un bicchiere, il mio compagno non pensa che io sia impazzita e che voglia appunto un bicchiere vuoto. Automaticamente me lo riempie o di vino o di acqua. E io non ho avuto bisogno di dire vorrei bere un bicchiere di vino o di acqua. Mi ha capito. Questa comprensione nasce non solo dal contesto visivo, ma questo legame tra ciò che è un contenuto, vino o acqua, e ciò che è un contenitore, il bicchiere, non è una cosa che esiste là fuori nel mondo. È una percezione che io ho del mondo proprio attraverso la lingua. E attraverso la lingua io costruisco delle categorie che permettono a tutte quelle cose sparse sulla tavola di avere un legame. Io costruisco attraverso la lingua il legame tra quel bicchiere e quel liquido e posso permettermi allora questa invenzione linguistica di dire bere un bicchiere o di guardare il mare e dire è solcato da una vela. Bere un bicchiere è una metonimia. Vedo una vela sul mare. È una sineddoche. Non serve a niente dare delle definizioni, ma sapere che il mondo è fatto di parti che possono sostituire il tutto, vela per nave, di contenitori che possono essere detti al posto del contenuto. Bere un bicchiere è una bellezza infinita della creatività e nasce da delle regole che io so.